Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era la fine di marzo del 1974. Per ragioni che non mi è concesso svelare, mi trovavo a Tainin, una città sugli altipiani al confine fra la Campuchia, negli anni 60 teatro di scontri fra gli australiani e i comunisti, in quella che allora era ancora, ma non potevo saperlo, per poche settimane, la Repubblica del Sud Vietnam. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui e oggi parliamo in qualche modo di vita militare, anche se chi la racconta, in questo caso, nel caso che vi ho appena citato, Dario, non era un militare, ma si trovava in Vietnam nel 1974. Se dobbiamo dirla tutta, non abbiamo capito esattamente bene che cosa ci stesse a fare in Vietnam nel 74, Dario. Poi risentiamo la sua il suo racconto e poi lo sentiremo al telefono e magari cerchiamo di capirlo meglio. Però Dario di fatto accompagnava il racconto da una mail che diceva così: ciao Matteo, mi chiamo Dario, ho ahimè 60 anni, vivo in Francia, sento spesso la tua trasmissione al computer, al telefono, eccetera eccetera, e questa è la mia storia e parla di Vietnam. E io devo dire che quando penso al Vietnam mi vengono in mente subito tutti quei film americani che hanno raccontato. C'è una mitologia fortissima, che è soprattutto americana, intorno a quella guerra, intorno a quel luogo però, no? Per cui uno si immagina subito queste giungle incredibili, si immagina il tizio, non mi ricordo nemmeno più come si chiama, di Apocalypse Now, che dice: quella fila di palme la voglio tutta giù, e quella fila di palme viene bombardata dal napalm semplicemente perché lui vuole farci il surf. Ecco, al di là di tutte queste mitologie, in Vietnam c'è stata e c'è tuttora, insomma, una situazione piuttosto complicata in una parte del Vietnam. E questa storia racconta di un momento fondamentale nella vita di quella nazione, e la racconta da un punto di vista particolare, perché la racconta da un punto di vista di un italiano giovane che si chiama Dario, che è lì, ancora non si capisce bene a fare che cosa. Era la fine di marzo del 1974. Per ragioni che non mi è concesso svelare, mi trovavo a Tainin, una città sugli altopiani al confine con la Campuchia. Negli anni 60, teatro di scontri fra gli australiani e i comunisti. In quella che allora era, ancora e solo per poche settimane, ma io non potevo saperlo, la Repubblica del Sud Vietnam. Ci avevano infatti informati che una nuova pesante offensiva era in corso più a nord, ma non credevano che le mire imperialiste del nord avessero la volontà, ma soprattutto i mezzi militari, per invadere e conquistare tutto il sud, e soprattutto che l'America avrebbe lasciato fare. Ebbene, si sbagliavano. Quando la notizia fu confermata che le divisioni regolari del nord avevano occupato Da Nang, venne l'ordine di convergere su Saigon con qualsiasi mezzo. Avevo poche cose all'epoca. In un paese tropicale non c'è bisogno di un gran guardaroba. Presi il mio zaino, salutai la truppa e mi avviai verso l'unico mezzo di trasporto che funzionava, l'autobus. Saigon distava a meno di 100 chilometri, un viaggio normale di 7-8 ore. Ci misi 2 giorni. La strada era ingombra di ogni sorta di veicolo: biciclette, rickshaw, vecchi taxi, gente a piedi, animali soli e accompagnati. Ci seguiva quasi di continuo il rumore del cannone, sempre da est. Di tanto in tanto qualche aereo ci volava sulla testa. Di notte si vedeva in lontananza la luce intermittente e rossastra dei bombardamenti. Quando arrivai a Saigon, scesi dalla corriera e presi un pus-pus. Non volevo andare subito all'ambasciata perché temevo che mi obbligassero ad imbarcarmi sul primo volo. Non sapevo che ormai i voli regolari erano praticamente cessati e che nessuna compagnia garantiva più Saigon come scalo. Io allora facevo l'università in Italia, facevo economia e commercio, mi specializzavo soprattutto in economie, diciamo, allora quello che si chiamava allora terzo mondo, diciamo paesi emergenti, ed in particolare mi occupavo di paesi emergenti sud-est asiatico. Poi mi sono poi lavorato in economia e commercio e ho una tesi sull'economia di sviluppo in periodo di guerra. Mi feci portare in una pensioncina che conoscevo bene, vicino alla cattedrale. Pagai qualche migliaio di piastre per una settimana in anticipo. Dopo una lunga doccia gelata, con addosso una camicia e dei jeans puliti, mi avviai verso la terrazza dell'hotel Caravelle, luogo noto di incontro tra giornalisti e tutti gli stranieri che erano rimasti in città. Ordinato una birra fresca, cominciai a guardarmi intorno. L'atmosfera non era quella solita. I camerieri non sorridevano, erano in pochi e c'era poca gente. Solo un paio di tavoli con ufficiali americani in divisa e qualche giornalista europeo che fumava con l'aria nervosa. Senza quasi accorgermene, passarono così più di 2 settimane. Una mattina alle 7, quando ancora stavo girandomi nelle lenzuola e pensavo a cosa fare della mia giornata, qualcuno bussò alla porta della mia stanzetta. Aprì. Con mia immensa sorpresa mi trovai davanti un giovane funzionario dell'ambasciata. Mi guardò e mi disse: «Finalmente, sono giorni che ti cerco». Appresi così la notizia riservata che la guerra era perduta. «Siamo rimasti io, l'ambasciatore, e tu», mi disse. «Tu e un pazzo di giornalista disperso. Siete gli unici altri italiani ancora a Saigon». Rimasi abbastanza interdetto. Il sogno della mia vita, di vivere in un paradiso indocinese postcoloniale, si dissolveva. «Cosa vuoi che faccia?» chiesi sbigottito. «E cosa vuoi fare? Siamo noi che dobbiamo fare per portarti fuori da qui». Io non sapevo cosa dire, quindi gli dissi la prima cosa che mi venne in mente. Voglio restare per vedere cosa succede, come finisce. Sono italiano. Cosa vuoi che mi facciano i Viet? Bravo, mi rispose lui. Gli americani stanno portando via tutti i vietnamiti che sono compromessi con il regime o che se lo possono pagare. Noi possiamo portarti fuori. Se resti, con ogni probabilità, ti sparano un colpo in testa e ti buttano in una fossa comune. Decidi cosa fare. Se vuoi partire, però, chiamami entro le 5 del pomeriggio. Vedrò di farti evacuare domani mattina all'alba. Se no, beh, buona fortuna. E se ne andò, sbattendo la porta. Rimasi a riflettere. Mi alzai, indossai la mia camicia a maniche corte e i jeans. Andai a prendere un caffè. E a un certo punto, per la prima volta nella mia vita, ebbi paura. Paura vera, quella che ti prende la bocca dello stomaco e te lo storce. Non era paura di morire. Era paura di finire così, nel nulla, a 22 anni. Con i miei che non sapevano nemmeno dove fossi veramente, erano convinti che facessi uno stage a Bangkok, con la mia solita mania dell'Oriente salgariano. Solo che questi non erano i tigrotti di Monpracem ed io non ero Yanez. E quindi non aspettai neppure le 5. A mezzogiorno chiamai il mio contatto e gli dissi che ero d'accordo, che mi mandasse a prendere. Lui era quasi sorpreso, mi disse: «Fai la cosa giusta, speriamo non sia troppo tardi. Prepara le tue cose questa sera e sii pronto a qualsiasi ora». Era il 22 di aprile del 1974. Allora era ancora un Oriente salgariano, molto, molto avventura, pochissimi bianchi, soprattutto in Thailandia, nei paesi dove ero io di confine, sono paesi di frontiera. L'uomo bianco era ancora guardato con un po' con stranezza, poi l'uomo bianco che parlava le lingue locali era ancora più strano, insomma. Solo molto tempo dopo lessi che la RVN, l'esercito della Repubblica Vietnamita, aveva smesso di combattere il giorno prima, che le trattative erano effettivamente in corso, che Saigon era destinata a diventare Ho Chi Minh City. Finalmente alle 4 del mattino uno scrostato pulmino Volkswagen venne a prendermi. Dentro c'erano, oltre all'autista, 5 vietnamiti dall'aria spaventata che si tenevano strette le loro valigie. «Dove andiamo?» chiesi. «A Tan Son Nhut, monsieur». Le strade erano deserte, il coprifuoco era tuttora in vigore. La cosa che mi colpì fu che, effettivamente, non si sentiva più il lontano brontolio dei bombardamenti. Non c'era nessuno. Tutto era silenzio. Non c'erano neanche i posti di blocco della polizia militare. Arrivammo all'aeroporto. Qui c'era un caos totale. Folla che premeva intorno al perimetro che era tenuto da marines americani molto nervosi, che ogni tanto lasciavano partire una raffica per aria. Gli elicotteri Chaiyuk arrivavano vuoti, imbarcavano la gente e ripartivano. In fondo alla pista c'erano ancora 2 Boeing 707 dell'Air Sud Vietnam. Uno di questi ci aspettava. L'autista del pulmino mi aveva dato il mio passaporto con una specie di laissez-passer. Lo mostrai a un marine per riuscire ad entrare fra due file di folla spaventata, piangente e supplicante, ma, con mia grande sorpresa, non tumultuosa. Con grande dignità e tristezza negli occhi. Quella calma rassegnazione che avevo imparato a rispettare e che solo nell'Asia del Sud-Est ho veramente incontrato. Mi imbarcai sul Boeing, ero l'unico europeo. Mi guardarono tutti un po' straniti. Notai che non c'erano hostess sul volo per Bangkok e non ci diedero neanche un bicchiere d'acqua. Arrivato a Bangkok, mi diedero un visto di due giorni. Potevo passare una notte là per trovarmi un volo per tornare in Europa. La sera, prima di coricarmi, mi affacciai alla finestra del mio hotel e pensai che una parte della mia vita era finita. Nulla sarebbe stato più come prima. Avevo 22 anni. Con i pochi soldi che mi erano rimasti, potei prendere un volo economicissimo dell'Air Flot che via Mosca, dove passai una notte gelida con meno 20 in un terribile hotel staliniano, arrivai a Milano. Che ironia. Un aereo comunista mi faceva rientrare a casa. Io che avevo fatto della lotta al comunismo una ragione della mia giovinezza. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Il mio Vietnam è stata la scuola, una battaglia infernale, poi l'università è stato come trovare l'Eden, Antonio. Gianluca, il mio Vietnam è adesso, prima era una pacchia. Barbara, il mio Vietnam è ogni giorno contro la mia parte oscura. E poi Carlitos, il mio Vietnam è stato a Milano un paio d'anni fa, quando tutto insieme, lavoro, amore e amicizia, hanno cominciato a guastarsi e mi sono ritrovato dentro un meccanismo di sentimenti inceppati. Adesso sto bene, ma ho dovuto svendere gran parte del mio patrimonio, lavoro, casa e amore, per ritrovarmi. 349-238-6666. Il Vietnam è stato usato dopo quegli anni, dopo quella guerra, come metafora di qualcosa di terribile e soprattutto che avesse a che fare con la sconfitta. Qual è stato il vostro Vietnam, qualunque esso sia stato? 349-238-6666. Per Dario, e si evince dal racconto ma anche dalla chiacchiera che abbiamo fatto fuori onda prima, il Vietnam è e rimane il ricordo di un posto magnifico. A Dario io vorrei fare un sacco di domande, quindi andiamo subito perché come al solito non abbiamo troppo tempo. Pronto Dario? Ciao Matteo. Come stai? Bene, poi dopo gli Animals, era meglio mettere i Doors, no? Come il tuo collega Giannini. Guarda, perché ce li abbiamo dopo i Doors, quindi se rimani lì li sentiamo dopo. Senti, dove sei in questo momento, Dario? In questo momento sono in Francia, sto partendo per Parigi, c'è un freddo bestiale, nevica. Perché tu vivi e lavori in Francia, giusto? Vivo e lavoro in Francia. Da quanto più o meno? Dall'inizio degli anni 90, quindi un bel pezzo. Fai un lavoro imprenditoriale, fai un lavoro, diciamo, lavori in un ufficio oppure? Diciamo che è un'attività mia, faccio l'imprenditore, faccio un po' il consulente, faccio l'imprenditore con mia moglie, abbiamo anche dei negozi. Ok, te lo chiedo per capire se appunto non vesti ancora una sahariana e sei sudato sotto una pala che ti raffredda in un bar del sud-est asiatico, questo volevo capire. Siamo a meno due anche sulla costa, quindi... E quindi, Dario, torniamo a 40 anni fa, che cosa ci facevi in Vietnam? Facevo, diciamo, il consulente, se vogliamo dire così, diciamo che cercavo di aiutare un po' questi poveri sudvietnamiti a venirne fuori dalla guerra, a venirne fuori in un modo brillante. Si sperava che ci fosse la pace, invece c'era ancora la guerra. In quel momento si parlava molto di accordi di pace fra americani, nordvietnamiti, e io ero lì e ho vissuto minuto per minuto quello che stava succedendo, molto spesso molto diverso da quello che si vedeva qua, in cui si vedevano poi i Vietcong come degli eroici liberatori, come nel 45, insomma, non era proprio così. Senti, ma tu eri ufficialmente là, perché tu dici che i tuoi genitori ti credevano a Bangkok, giusto? Io non ero ufficialmente là, ero ufficiosamente là. Ero stato invitato dal governo sudvietnamita e per il governo sudvietnamita lavoravo. Ma e l'Italia, cioè il governo italiano, cosa sapeva di tutto ciò? Il governo italiano sapeva che ero lì, perché evidentemente certo. non eravamo moltissimi, sapeva esattamente che ero lì, sapeva quello che facevo e mi tollerava, insomma. Ti tollerava, non è male che eri tollerato dal governo italiano. Beh, pensate a quello che era l'Italia negli anni 70, era amica con tutti e quindi insomma non poteva permettersi in un momento di cambiamento come quello di mettersi contro quello che sarebbero stati, loro sapevano, i futuri governanti del paese. Quindi, quanto ci sei rimasto là a fare quel lavoro per il governo? L'ultima volta sono rimasto quasi 9 mesi. Ah, ok, però quindi avevi, mi dicevi prima, tra i 22 e i 24 anni, giusto? Sì, esatto. E non avevi paura? Ma la paura è una cosa, insomma, si ha paura ogni giorno e non si ha paura mai, poi si fa l'abitudine a tutto, si fa l'abitudine a essere sotto. Però dico, la guerra era percepibile, ci vivevi in mezzo? Sì, certo, mi sono stato anche ferito una volta. Dove, mi sono preso una scheggia di mortaio mentre in un bombardamento proprio nella città in cui ero. Ma per strada, di giorno, di notte? In una trincea. Cioè, quindi scusa Dario, scusa un secondo. No, più che altro non mi è mai capitato di fare quattro chiacchiere con uno che in trincea si è preso una granata, quindi non hai mai potuto parlare con mio nonno, visto che siamo con delle... mio nonno è stato medaglia d'oro sul carro. No, guarda, in realtà mio nonno che era in Libia è stato mandato a casa perché era stato colpito da una scheggia in una mano, quindi in realtà quei racconti li conosco, però diciamo da adulto, da quando posso fare domande vere, non mi è mai capitato. Ci puoi accennare per quale motivo eri finito in una trincea? Immagino tu non ci fossi scivolato. No, perché c'era stato un attacco improvviso e io mi trovavo lì, a dire il vero stavo facendo la spesa al mercato. Ok, no, perché te lo chiedo perché arrivano un sacco di messaggi di gente che dice vabbè, era un agente segreto. Ma no, non ero James Bond sicuro, ero un ragazzo giovane che credeva in certe cose e fra l'altro non ero neanche pagato per quello che facevo, ho pagato un tozzo di pane, mi costava appena per mangiare una ciotola di riso al giorno, quindi non ero assolutamente, era pura ideologia, non era assolutamente, era la voglia di fare qualcosa di utile e che difatti poi dell'89 si è dimostrato che avevo ragione, un po' troppo tardi. Ma... Senti, invece dimmi i tuoi genitori cosa ti credevano a fare, a Bangkok a fare uno stage? Beh, io ero stato sposato con una thailandese, quindi... Cioè, certo, scusami, scemo io che non ci ho pensato prima, che ovviamente ti eri sposato con una thailandese, quindi ti credevano là da lei. No, perché ero già un po' di rotta e quindi mi credevano in realtà che fosse in Thailandia cercando di rilassare i rapporti che erano già compromessi, diciamo, infatti che... sono finiti purtroppo in un divorzio. Che cosa ti manca a oggi che hai, scusami, non ho fatto i calcoli, una sessantina d'anni? 60, sì. Ne hai 60. Che cosa ti manca oggi a 60 anni che facendo una vita, passami il termine, comoda direi, no? Cioè lavori... Normale. Ti manca qualcosa di quell'epoca, di quello che eri tu, di quel posto? L'adrenalina di quello che ho fatto in quel momento, questo sicuramente mi manca. Poi mi manca tantissimo come era l'Indocina allora, perché io ho vissuto fortunatamente negli anni 70 quello che poteva essere ancora l'Indocina del secolo precedente, che poi è completamente cambiata. Per esempio Bangkok era veramente la Venezia dell'Oriente. Si viaggiava ancora in barca da un posto all'altro, adesso è tutto coperto da metropolitane passanti, da autostrade, superstrade, eccetera. Senti, e poi purtroppo... anche la disabilità della gente, che allora era diversa, poi purtroppo diventa tutto diversificato, tutto è coperto. Chiaro, chiaro. Purtroppo ti devo salutare, Dario, però dimmi l'ultima cosa al volo, quanta parte ha avuto Salgari in tutto ciò? Beh, tantissime. Senti, ti ringrazio ancora. Qua i messaggi che fioccano non te li puoi immaginare, ma ora non te li leggo nemmeno. Mi fa piacere. Ti ringrazio ancora. La tua trasmissione è magnifica e spero che duri per sempre. Ti ringrazio. Le cose migliori non durano per sempre. Ti ringrazio, Dario. Grazie ancora davvero per la storia e la chiacchiera. Ciao, buon lavoro anche a te. I'd like to say that I was on your mind. So I phoned you at 3:10 in the afternoon. It's evening for you and another bare hotel room. So hard to believe that you're dreaming of me too. But it's true, you only go around.